Thank you. Thank you. destra vil non tocchi, in te non abbia il nido augel rapace. Grandine a te non giunga, e non ti vega da profanato a ciargia mai recisa. Ma la tua che d'onor fronda beata, sacra l'aurora si